Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Guglielmo Epifani, 59 anni, romano. Dopo una brillante laurea in filosofia con una tesi su Anna Kulishov, entra nel sindacato e scala tutti i gradini della Confederazione. Si segnala nell'affrontare e risolvere i problemi legati all'editoria e alle nuove tecnologie. È segretario generale dal 2002 al 2010. Il 7 maggio del 2013 viene nominato segretario nazionale del PD. Suona la chitarra, ama il suo gatto ed è tifoso dell'Inter. Allora, segretario, lei ha detto ieri no al governicchio, ma Letta bis che potrebbe nascere sarà un governicchio? Ma guardi, è assolutamente troppo presto per fare pronostici. No al governicchio vuol dire no a un governo che trova un po' di voti di transfughi e vive una vita stentata. E c'è un'altra possibilità? Lo vedremo dopo mercoledì. Mercoledì è il giorno della verità, tra Senato e Camera, e soprattutto al Senato lì si capirà cosa succede. Ma lei si aspetta una rottura dentro il PDL? Ma vedo che c'è una grande discussione al loro interno, oggi hanno la loro assemblea dei gruppi, vediamo come finisce. Senta, ma intanto lo spread vola? Come avevo detto, il centrodestra sta facendo saltare in aria il paese ed era evidente che di fronte a un'instabilità così clamorosa lo spread oggi ripartiva. Senta, Letta dice però non sarò un retravicello, allora governicchio, retravicello, mi sembra che stiamo là. Ma vuol dire che abbiamo tutti alla mente quello che è successo in altre fasi della vita politica, dove per provare a tirare a campare in realtà si è stato peggio tutti. Quindi sia chi faceva il capo del governo, sia soprattutto il paese. E quindi lei spera o teme le nuove elezioni? Non si capisce. Guardi, è pronto. Ho sempre detto pronto a tutto. Non lo spero e non le temo, perché io credo questo debba essere il nostro atteggiamento. Senta, dalla CGIL al PD è stato come cadere dalla padella nella brace, più o meno? Ma diciamo è come stato cadere da un impegno totalizzante a un altro impegno totalizzante, anche se diciamo di carattere diverso. Vabbè, ma non è cos'è peggio dei due? Si sbottoni un po'. La CGIL ha il vantaggio di essere una grande organizzazione, molto strutturata, molto organizzata. Questo naturalmente dà dei vantaggi, ma crea anche un problema di tempi di gestione delle decisioni. Più lenti, qui è più veloce. Il partito è tutto più veloce, ha meno sedi di discussioni e di scelta, e però contemporaneamente è anche meno organizzato, e questo naturalmente crea a volte dei problemi. Senta, ma c'è qualcosa che adesso che è segretario del partito vorrebbe non aver mai fatto come segretario della CGIL? Ma ci ho pensato tante volte, ora non è che uno presume di averla sempre trovata giusta, ma anche quando posso aver fatto degli errori. Ma una, me ne dica una. Ma forse non avrei dovuto alzarmi quel giorno al tavolo con Montezemolo e malgrado l'errore fatto da loro restare seduto, perché un buon negoziatore non si deve non alzare si alza mai dal ecco, tavolo. Molti dicono però che la crisi è anche colpa vostra del sindacato, perché avete difeso troppo lavoratori e pensionati e poco il lavoro, e quindi bloccando un po' il paese. La sente questa responsabilità? No, non esiste questo tipo di critica o di responsabilità del sindacato. Esiste una responsabilità dell'intero paese, delle sue classi dirigenti, nel non aver contrastato quello che io già dal 2001 chiamavo il rischio del declino industriale e produttivo del paese. In questo c'è anche una responsabilità del sindacato, che peraltro rispetto ad altre parti è quella che ci ha visto prima e un po' più a lungo. Sì, senta, ma per dare un futuro decente a questo paese, che è sempre più difficile, è più indietro la politica o il sindacato? Il sistema politico italiano è troppo fragile, troppo composto da partiti o da movimenti personali. Abbiamo bisogno di un sistema politico più europeo. E quindi è più indietro la politica? Arrivo. Finché non si risolve questo problema del sistema politico italiano, questa sarà una nostra fragilità. Il sistema politico è condizione e causa della fragilità del sistema istituzionale. Senta, il sindacato fa in queste condizioni quello che può. Quindi nessuna autocritica. Ma è possibile che alla fine non si sono trovati quattro soldi per non aumentare l'IVA, mantenere gli impegni di governo e lasciare Berlusconi nudo davanti alle sue eventuali contraddizioni? Io ho sempre pensato che l'IVA non dovesse aumentare in questa fase di calo dei consumi. Credo che si fossero trovate le risorse, ma credo che abbia fatto bene il governo a non decidere in assenza di una prospettiva del governo. Se tu decidevi una cosa, i cui poi costi ricadevano su un percorso parlamentare parlamentare del tutto incerto perché si poteva aprire una crisi di governo, non era eticamente e responsabilmente comprensibile. E non era un ricatto? No, il ricatto al contrario. Senta, Befera, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, dice però che sono più gravi i mancati tagli alla spesa pubblica che non gli evasori fiscali, l'evasione fiscale. Perché è perché è un tabù per voi la spesa pubblica? Ma guardi, non è un tabù. Io, ad esempio, ho sostenuto che dall'ingresso della moneta unica 2001 uno dei problemi che abbiamo avuto è che da noi c'è stato un incremento della spesa pubblica corrente e una caduta della spesa pubblica per investimenti. E quello che, di cui accuso il centrodestra, è di aver fatto crescere la spesa corrente e di aver tagliato gli investimenti. Però questo governo sembra che non abbia più nessun padre, a parte Napolitano. Anche Letta a Genova ha detto: questo non è il mio governo. Ecco, può un Presidente del Consiglio dire che il suo governo non è il suo governo? No, lui ha detto non era il governo che voleva, perché lui era stato impegnato con Bersani e tutto il PD a un governo di svolta. Questo è un governo di necessità, un governo non è di servizio. Nessuno, no, non è di nessuno. Guardi che un governo prende i voti e la fiducia in Parlamento. Quindi è dei parlamentari che lo votano e di quello che rappresentano i parlamentari. Senta, Barbara Berlusconi, la figlia, dice: se mio padre è un criminale, perché siete andati al governo con lui? Una domanda che si fanno un po' tutti, ma perché? Ma perché io amo sempre distinguere, credo che in democrazia bisogna farlo, tra le responsabilità di un leader e i voti dei cittadini elettori. Chi sta in Parlamento rappresenta anche quei cittadini elettori. Ma lei pensa che la gente li capisce tutti questi bizantinismi? Ma se non usiamo un po' l'arma della critica e stiamo dentro un linguaggio populista che ci ha portato dove ci ha portato. Però una cosa dovevate farla, tutti insieme l'avete detto, la legge elettorale, non se ne vede traccia. Non se ne vede traccia perché in realtà il forse governo, nessuno la vuole in realtà. Sta lì da qualche mese. Io temo che molti non la vogliono, il Partito Democratico le assicuro la vuole. La vuole. Letta comunque, a parte sopravvivere e viaggiare molto, come ha fatto anche Monti, nel mondo utilmente, che cosa ha fatto di concreto? Poco per lo sviluppo, poco per il lavoro. Le do due dati della Banca d'Italia, il PIL... per quest'anno è previsto a -1,9 invece che -0,5, la disoccupazione arriverà al 13%. Successi del governo questi? Guardi, lei avrà visto in questi giorni di minaccia della crisi come praticamente tutte le forze di rappresentanza sociale, la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, non vuole la crisi di governo. Se Letta avesse fatto così male, la grande maggioranza delle rappresentanze sociali, economiche... E quindi questi dati non dicono nulla. E quindi sono una parte della verità, ma non sono tutta la verità, ecco. Perché Letta ha fatto delle cose anche molto buone. Me ne dice una, la più importante? Sì, ad esempio, dopo 8 anni gli investimenti nella scuola. Ok, senta, queste larghe intese però alla fine sembrano più paralizzare che risolvere i problemi del paese, d'accordo? Queste larghe intese, allora dobbiamo vedere, larghe intese di per sé è un sinonimo di un governo più largo, non necessariamente un governo più efficiente, dipende dal programma che ti dai. Vediamo adesso cosa succede in Germania con le loro larghe intese. Dove può essere la differenza? Il centrodestra italiano non è naturalmente la Merkel, e quando lì negoziano un programma lo negoziano per settimane. Forse la difficoltà del governo bisognava Letta negoziarlo nasce, meglio, ma probabilmente non di c'era tempo, ma questo andava fatto. Senta, anche Renzi vuole le elezioni subito. Insomma, siete d'accordo? No, insomma, lei un po' l'ha detto, no? Lei è pronto a tutto, diciamo. Ma guardi che nel PD siamo tutti pronti a tutti, ma naturalmente tutti, però prima di andare a votare vorrebbero cambiare la legge elettorale. Anche Renzi si accorge che con una legge elettorale come questa corriamo il rischio comunque di una paralisi futura. Ma almeno la data delle primarie resta fissata l'8 dicembre? Quella che è stata detta, certo. L'8 dicembre? Sì, sì. E il congresso? È il congresso? Esattamente. Cioè, che non me lo ricordo io la data? Esattamente, l'8 dicembre finisce il congresso con l'elezione del nuovo segretario del Partito Democratico. Senta, stiamo andando verso uno scontro Letta-Renzi come D'Alema e Veltroni? Ma non è presto per dirlo. Ma c'è questa possibilità? Ci può essere questa possibilità, ma ci può anche non essere. D'Alema, che candida Cooper, lo dice, leggo testualmente, che il segretario del partito deve essere uno davanti al quale la gente tace perché si aspetta di sentire cose che non sa. E questa la skill del segretario? Beh, questo vuole dire che ci vuole un segretario di peso, di qualità, di peso, di culturale. Cultura, di qualità, in questo c'è naturalmente un fondamento di ragione. Ma io mi accontenterei di qualcosa, diciamo, ancora di più semplice, un segretario meno precario, perché noi in 5 anni abbiamo cambiato 5 segretari. Quindi tanta unità non c'è. Ecco, ma mi dice una cosa che non so. Ma per esempio lei... per chi voterà alle primarie? Ma guardi, io ho un ruolo di garanzia, mi è stato chiesto e intendo mantenerlo. Quindi niente per adesso, nomi? Per adesso mi tengo a questo profilo. Devo anche dirle, se avessi voluto fare una battaglia esplicita mi sarei candidato. Ecco, La possibilità che lei sia candidato No, ho se... già detto, No, funzione niente. garanzia esclude questo gioco di parti. Neanche se poi all'ultimo momento glielo chiedono come è stato per Napolitano Ma per il no, no, bis al Quirinale? nell'ambito di un congresso è giusto che ci sia il rinnovamento, il nuovo segretario legittimato dal voto degli elettori e degli iscritti. Vabbè, però ha abbassato il tono della voce, potrebbe anche essere, insomma. No, perché Non si stiamo sa. facendo domande e risposte di Ah, gran va corsa. bene. Lei li ha votati i referendum radicali sulla giustizia? Quali? Quelli radicali sulla giustizia, i 10 referendum, questi Questi, no, ultimi. firmati non ci Sì, sono. firmati. No, No, no, no, no, votati, no, no, scusi, sì. firmati, certo, No, no, naturalmente. no, firmati no. No, no. Perché? Perché quando tu stai in Parlamento e hai lo strumento legislativo, Devi operare lì. ebbene, sarebbe più logico che tu operi lì piuttosto che firmare cose che abrogano cose che tu Sì. puoi in realtà cambiare con la Si tua cambiano attività poco, però, legislativa. naturalmente. Luciano Violante è stato contestato e lasciato solo per aver detto che Berlusconi aveva il diritto di difendersi. Non è un brutto segnale del Ma no, partito? non adesso non vorrei esagerare neanche queste contestazioni. C'è stata un'assemblea a Torino dove qualcuno ha avuto da ridire, qualcun altro invece era d'accordo e devo dirle che Violante ha espresso delle sue opinioni, ma sono state assolutamente accolte con grande rispetto. Ecco, ma lei perché non ha detto una parola in difesa di Violante, tanto No, ma perché... le ho detto sempre che Violante aveva espresso un'opinione che era del tutto legittima. Lei la condivide o no? Io condivido la parte relativa al diritto della difesa, ho sempre detto se il diritto alla difesa è un modo per prendere il tempo, Senta, non sono ma convinto. magistrati politicizzati, come dice Berlusconi, hanno inciso o no sul nostro paese? Diciamo che c'è stata per un lungo tempo, in parte ancora esiste, un rapporto tra la funzione giurisdizionale e talvolta la funzione Sì o no, mi politica, dica sì o in no. parte. In Per una parte. parte, in parte, Per adesso una parte, in non parte. dobbiamo Senta, esagerare per una parte, in parte. Io le perché. faccio sentire cosa dice a proposito di magistrati il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, che è assolutamente, come dire, senza peccato. L'audio. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Insomma, la Boccassini è più avanti di voi. Per voi parlare di giustizia finché Berlusconi è No, vivo è ma un no, tabù? no, non è così. Guardi che io stimo molto la dottoressa Boccassini, che ho conosciuto ai tempi di Palermo e credo che, soprattutto detto da lei, la cosa sia molto importante. Appunto. Ma vorrei dire che quello che lei dice con chiarezza, come vede, lei non si rivolge al sistema politico. No, Lei si rivolge ai ai magistrati, magistrati, cioè, esatto. e ha ragione perché deve venire dal dentro della magistratura la consapevolezza di questi problemi. Ok, senta, lei ha fatto una tesi in filosofia, l'abbiamo detto nella presentazione su Anna Kulishov. Che cosa le resta di quell'esperienza, di quello studio? Ma mi aveva affascinato questa personalità di questa Ucraina anarchica legata ai movimenti di liberazione della terra nella Russia zarista, che poi arriva a Zurigo, poi arriva in Italia, si lega sentimentalmente a Andrea Costa, poi a Filippo Turati, diventa la signora del socialismo italiano e una delle grandi donne della parità tra uomo e donna. Ecco, ma il Pantheon dei suoi maestri, rapidamente, qual è? È troppo grande. Ma Io tre o quattro più guardi, importanti? comincerei con un nome, perché la mia prima cosa pubblica è avvenuta quando avevo, credo, 18 anni, al mio liceo, e quando commemorai Jan Palach, questo Jan Palach, ragazzo sì. che si uccise di fronte ai carri armati sovietici che Quindi invasero Praga. Da lì, da lì. Questa è la mia prima la vera. libertà in funzione anticomunista, diciamo, Esatto, in quel la caso. libertà e il sacrificio di sé per la libertà. Questo è il primo, e poi l'altro grande, Giacomo Matteotti. Senta, ma come mai un romano come lei è diventato interista? Beh, guardi, io però sono cresciuto a Milano, nel senso che sono nato a Roma. Mio padre si trasferì per lavoro a Milano con la famiglia e io sono E quindi stato era la grande esattamente. Inter, c'era la E grande andavo anche da Inter, solo, anche vabbè, giovane giovane, andavo a insomma. vedermi tutta la grande Inter, Vabbè, quella di non si può dire Moratti padre, non si della poteva famosa resistere. formazione, sì, esattamente. Cioè, la sa memoria, immagino. Sì, Sarti, Burgni, Sfacchetti, eccetera. No, no, dica, dica. La sa? Vedinguer, Neri Picchi, Jair, Suarez, però, Corso, quella là. Bravo. Senta, è Moratti che lascia la presidenza, che effetto le fa? Rottamato anche lui? Questo un po' mi dispiace, perché insomma ha dato molto all'Inter, la famiglia Moratti. Probabilmente ha capito che è il tempo di avere e di passare la mano, almeno come maggioranza delle azioni. Poi d'altra parte l'Inter si chiama Internazionale, come sa. E quindi la sua vocazione è quella. Proprio da una costola. La sua vocazione è quella. La sua vocazione è quella. Senta. Bersani voleva smacchiare il Giaguaro, Renzi vorrebbe asfaltare il PDL, ma è il massimo della fantasia che avete in tema di slogan? Ma no, vabbè, adesso non è che si può prendere uno slogan, un altro slogan e poi dire, ne abbiamo tanta di tanti. Fantasia. Me ne dica uno bello. Quello del nostro, della nostra festa di Genova, quella che abbiamo appena conclusa, l'Italia che vale. Senta, Veltroni voleva un partito liquido, poi è diventato gassoso, lei come lo immagina in una battuta al suo partito? Guardi, un partito leggero, inclusivo, aperto, plurale, ma un partito. Ecco, onorevole Epifani, qui sia lapidario. Matteo Renzi è un leader o un capocorrente? Matteo Renzi è una straordinaria personalità del nostro mondo, del nostro partito. Leader o capocorrente? Ma certo, è un leader. Massimo D'Alema in pensione o spera ancora? No, pensione proprio non no, direi. Direi che oggi, ancora oggi, e per una parte importante ancora davanti a noi, è uno dei grandi ambasciatori della sinistra riformista italiana nel del Partito Democratico, sicuramente in Europa. Senta, ma Bersani dove ha sbagliato? Bersani dove ha sbagliato? Forse ha fatto una campagna elettorale, diciamo, un po' di conserva. D'altra parte anche tutti i sondaggi spingevano in quella direzione. E come ho detto, forse abbiamo sottovalutato la domanda di radicalità di cambiamento, ma guardi che non è che ha sbagliato solo Bersani e tutti quelli che hanno condiviso quella campagna elettorale. Quindi anche Letta che stava lì con lui? Tutti. Senta, prima di finire, le faccio sentire questa frase di Papa Francesco detta in Sardegna durante il suo ultimo viaggio. Non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che ha al centro un idolo che si chiama denaro. E Dio ha voluto che al centro del mondo non sia un idolo, sia l'uomo e la donna, che portino avanti col suo lavoro e portino avanti il mondo. Che effetto le fa questa frase di Francesco? È un Papa straordinario sulla guerra, sui temi sociali, sta facendo un grande processo di rinnovamento della Chiesa, davvero importante. Senta, ma è lui il leader numero uno che c'è in Italia oggi? Ma vede, fa parte della debolezza del nostro sistema paese pensare che il Papa sia italiano. Il Papa appartiene a tutta la comunità mondiale e in questo appartiene anche all'Italia, ma guai a noi se scambiamo il piccolo per il grande. Ma il fatto che venga da Sud America è portatore sano di un virus di rinnovamento? Viene da una delle grandi esperienze della nuova Chiesa e di un grande continente in rapidissimo sviluppo. Da questo punto di vista più pieno di fermenti di quanto non sia la vecchia Europa. Senta, le faccio un'ultima domanda. Ma lei in Dio ci crede? Ma guardi, no, ho abbandonato la strada della fede e sono tra coloro che ha dubbi, che si interroga, ma non ha anche in ragione di questo una fede. Grazie mille Guglielmo Epifani. Sono le 9:29, 30 secondi, dopo la pubblicità torneremo in diretta per commentare che cosa bolle in pentola in Italia e nel mondo con Pierangelo Buttasuoco e Mario Secchi. Il nostro numero di telefono, lo ricordo, è 800 24 00 24. Se invece volete mandare degli sms il numero è 349 23 86 66. Dopo la pubblicità. Mix 24. Siamo di nuovo qui a Mix 24 insieme agli amici Pietrangelo Buttafuoco e Mario Secchi. Chiamateci se volete all'800 24 00 24 o mandateci degli sms al 349 238 6666. Adesso parliamo di che cosa bolle in pentola oggi in Italia e nel mondo. Ma prima vorrei da tutti e due un titolo. Che titolo fareste sul giornale domani sull'intervista di Epifani, Mario? Il Sandro Ciotti del PD. Bellissima la formazione dell'Inter. Buttafuoco? E siamo sul provvisorio e quindi nel provvisorio un leader di servizio per un governo di servizio. È un'aspirazione, una cosa neutra, e tutte le cose neutre inevitabilmente ammorbano. Però è un titolo che neanche lui è un romanzo. È nove colonne, abituato al foglio. Ah, va bene, al foglio, ok. Senti Mario, che cosa bolle in pentola oggi in Italia e nel mondo? Ma guarda Minoli, ci sono le solite 10 cose viste e sentite da me. Intanto la crisi, ma anche no, cioè si riuniscono i gruppi parlamentari del PDL. Avete detto con Epifani che sta volando lo spread, bisogna seguire la giornata di borsa, i mercati sono aperti. E l'Italia oggi vediamo come sta, perché l'Istat dà i prezzi alla produzione e all'industria, i prezzi al consumo, lavori e retribuzione alle grandi imprese, insomma dà i numeri. E poi c'è il debito USA che preoccupa i mercati, USA sta per Stati Uniti, certo. Sai che Obama ha detto che bisogna alzarlo, e abbiamo il caso delle cosiddette poltrone iettabili, cioè cucchiai. Senti, ma a proposito degli Stati Uniti, ma questo incontro, questa telefonata fra Obama e il presidente iraniano, come la vedi? Pietrangelo. Come la vedo? La vedo che c'è una grande tradizione di diplomazia di politica. Proprio oggi c'è un bellissimo articolo su Annibale, scritto da Paolo Mieli nel paginone del Corriere della Sera, dove viene scolpito un concetto molto persiano, e cioè che chi vince la guerra non sa costruire mai la pace, chi invece la evita costruisce una meravigliosa pace, ed è una massima che arriva direttamente da Ciro il Grande. Ma molto e Paolo Mieli parlava di Ciro il Grande o di se stesso? Credo di se stesso. Perché coincidono le cose. Ha una tentazione. Accompagnandosi al sigaro di Churchill. Va bene. Cioè, allora. Ha fatto l'agenda Mieli, è diventata l'agenda medio orientale. Andiamo avanti Mario. No, beh, vabbè. Le cose che bollono in pentola. Lupus in fabula. C'è oggi un'importantissima intervista al quotidiano riformista iraniano Sharg di un rappresentante del Dipartimento di Stato che dice via le sanzioni. Questa è si conferma la svolta di cui parlavamo. Cose che sembrano leggere ma non lo sono in realtà. Apple si è bevuta la Coca-Cola, cioè la più importante ricerca sui marchi del mondo dice che il marchio della mela è diventato più famoso della bibita globale. Al secondo posto c'è Google e poi al terzo viene la bibita, appunto, di cui parlavamo. E temi ancora interessanti. Oggi si presenta... No, scusami. Che? Marchi italiani al 100%. Prada, Gucci, Ferrari, sì. Non ne vogliamo neanche citare? Sì, Prada, Gucci e Ferrari, li hai citati tu? No, preso... perché mi sembra importante. Che e che tutti dici questi tu? Marchi Berlusconi non c'è? No, però è molto famoso. fa le prime pagine. Interessante perché secondo me, insomma, il costume italiano, cioè, oggi presenta Ragozzini l'enciclopedia del Festival di Sanremo. Insomma, ci sentiamo? Ve lo ricordate? Grandi patrioti e scrittori, gonfalonieri, Silvio Pellico. Chi se lo dimentica? Le mie prigioni. Silvio Pellico, le mie prigioni. 20 anni. C'è Santoro da... 20 anni. Non cambia... Allora, 20 anni. Silvio Pellico, che ha scritto un libro memorabile, vero? Io l'ho letto tutto. Bellissimo, un libro memorabile, uno dei libri padri della nostra fondazione culturale di quell'epoca, Le mie prigioni, Silvio Pellico. Ora va, prima di trovare un altro Silvio che scriva un libro così, valla a trovare quanto ne deve passare, va bello. Insomma, vedi, il Festival di Sanremo lascia tracce. Vedi, il lupo della mala coscienza, così come opera pensa, e quel Benigni lì era lo svelato nel sottaciuto. ci sperano di vederlo in prigione. Beh, insomma, vediamo. Intanto vi segnalo che in Spagna hanno deciso di cambiare il fuso orario. C'è un report del governo che dice: per 71 anni siamo stati nell'ora sbagliata, vogliono tornare all'ora di Londra e si illudono così di lavorare di più. Tu, Giovanni, ce li vedi tra tapas e birra a lavorare di più gli spagnoli? Non lo so, però loro hanno avuto in qualche modo così un inizio di soluzione dei problemi economici, sì. Con che cosa? Con l'arrivo di qualcuno che ha deciso per loro. È il rischio che corriamo anche noi con questo governo in crisi, o no? Beh, direi proprio di sì. Sai, il rischio che qualcuno ci scriva la legge di stabilità e ci faccia, diciamo, ci indichi la via delle riforme è molto concreto. Io chiuderei con la decima cosa, che è il vero argomento oggi al bar, che siate juventini o no, e cioè la foto della caviglia di Tevez, che insomma è stata un po' pestata dagli attaccanti, anzi dai difensori. No, in dagli caso. Attaccanti, era immobile. Era immobile in recupero. Del Toro. Questo è argomento assolutamente pop. Grande dibattito al bar sulla caviglia di Tevez e sul fuorigioco di Pogba. No, Pogba. Anzi di Tevez sul gol di Pogba. Ecco, io vi ricordo, il numero per chiamare è 800 24 00, oppure scrivete al 349 238 6666. Dopo le strade in diretta, tocca a voi aggiungere qualche cosa in pentola. Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, tripla Causio che passa Tartelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli, tre che più, Gianni Brera, tre che più, Bearzot, tre che più, Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobilton Eminenza, Monsignore Vossiasceri, Mon Amour. Tre che più. Pietrangelo, eccomi. Che cosa la tua fantasia vulcanica, che cosa ti suggerisce rispetto alla nostra pentola che bolle le nostre canzoni? Vulcanica rispetto a Etna, immagino. Certo, per ovvio, di sono nascita. Etna. Certo. Guarda, ovviamente la notizia più importante è quella persiana, perché lì si gioca il nostro futuro e vedremo come andrà a finire. Però noi abbiamo il cortile italiano, e quindi la prima delle notizie elencate nella pentola è quella della crisi, nel senso che oggi voleranno le penne tra i falchi e le colombe. Secondo me si sta ripetendo lo stesso errore di calcolo di quando si preparò la scissione di Fini. Cioè andarono da Berlusconi a dire tanto se ne andranno in quattro gatti. Ah, io ricordo invece bene. Se ne andarono in tantissimi. Sì. E adesso si sta ripetendo lo stesso errore, anche perché c'è una esca molto particolare. Ma tu pensi che avranno il coraggio con i dissidenti del PDL? C'è un'esca. Sai qual è? Qual è? È il Partito Popolare Europeo. In queste ore, direi anche in questi minuti, adesso sicuramente arrivano delle lusinghe che sono molto ghiotte. C'è il complotto tedesco. Più che il complotto tedesco, intanto diciamo una cosa. Questi è non tornata sono... Angela. No, guarda, la situazione è molto più pesante. Questi non sono dei traditori, questi sono dei traditi. Questi si sono visti scavalcati e precipitati in una situazione a seguito di un pranzo dove non c'erano. Beh, dove sì, non però, c'erano, diciamo, non c'era il segretario del partito, soprattutto. Certo, lì ovviamente è molto più chiaro che il discorso è nelle mani di Berlusconi in quanto padrone. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che questa esca è in questi termini: noi vi diamo la possibilità di andare nel PPE, ma lasciate il padrone. E questo è l'argomento forte. Bisogna vedere io se credo funziona. Che sarà, io penso che non sarà so. Difficile che funzioni okay. questo argomento, al di là del suo, come dire, la sua forza giornalistica, polemica e tattica in questa partita di poker che si sta giocando fra gli attori principali della crisi. Ma la Merkel, quella di cui parlava prima Mario. Sì, però non c'è il tanto di fare lo strappo, come si dice in gergo, cioè non c'è ancora la possibilità, secondo me, di farlo, almeno in base a quelle ragioni. Ce ne possono essere altre, di politica interna, ma non questa. Ecco, abbiamo il telefono Rachele da Roma. Che cosa aggiungi alla nostra pentola oggi, Rachele? Buongiorno, sono Rachele da Roma. Sì, io vi ringrazio, sono tutti temi centrali quelli toccati, ma oggi la notizia che mi colpisce riguarda l'istruzione, perché io sono una mamma e quindi il tema degli studenti che sono stati ammessi al corso di medicina ma che non possono essere assorbiti al nord, sono costretti ad andare al sud e poi non possono essere assorbiti a livello di occupazione, è un tema che mi fa pensare che tutto quello che è stato detto fino adesso anche dai Epifani sia un po' fuori dalle nostre priorità, che devono ritornare al centro e che devono... Certo, l'uomo al centro, come diceva il Papa, in qualche modo, con i suoi veri bisogni. Grazie, Rachele. Michele da Torino. Buongiorno, io volevo girare una domanda a lei e agli ospiti. Quando Napoleone perse a Waterloo, la colpa fu di Grouchy, che per troppa obbedienza rimase fermo e non lo raggiunse. Girandola nella politica, lato PDL e lato PT, chi sarà il Grouchy della situazione? Grazie. Seichi? Ma no, dunque, tanto Napoleone sbagliò la tattica perché a Waterloo piove troppo e lui non riuscì più a manovrare bene l'artiglieria, lui era un grandissimo artigliere. E qua il problema in realtà è che non c'è nessun Grouchy, il problema è a mio avviso che Berlusconi ha aperto una crisi che è kamikaze, cioè ha studiato la prima mossa e poi non c'è la seconda. Quindi puoi staccare la spina al governo, ma alla fine della fiera il pallino torna in mano ad altri, cioè al Presidente della Repubblica. Mix 24. Pietrangelo, toccava a te rispondere al nostro amico di Torino, il nostro amico di Torino su Waterloo e sugli errori di Waterloo. Non si può fare il paragone, perché perfino Napoleone, che era Napoleone, aveva un senso del noi, aveva un senso della patria, aveva un senso della mobilitazione degli eserciti e delle genti al suo seguito. Perfino Napoleone. Non si può fare quindi il paragone, perché qui c'è la disfatta di un uomo che a tutti i costi vuole essere solo e da solo decidere e senza aver costruito intorno a sé un destino che appartenga a tanti. Tant'è vero che i fedelissimi, proprio per non risultare stipendiati, ieri hanno consumato un vero e proprio dramma di lacerazione. Ci sono novità, scusa, grazie. Ci sono novità, Mario? Che è cosa capita? Perché il ministro delle riforme Quagliariello, tu sai, uno dei dissidenti, sì, ha appena detto che... Dissidenti, poi lo vedremo fino a dove, perché questa è una cosa che andrà valutata. La riunione questo pomeriggio, vediamo la riunione del gruppo. Però sì. Quagliariello dice, insomma, che non sta dando vita ad alcun nuovo partito. È cominciata la tattica. Quindi no? La teoria del PPE sta cominciando a vacillare, se capisco bene. Non funziona in Italia il PPE, ragazzi. Dai, su. È un'esca, è una lusinga. Tutto è stato sempre giocato in un ambito parlamentare. Questo benedetto PPE servirà soltanto a far traghettare l'attuale crisi in un governo, come lo possiamo chiamare, di servizio, di scopo, di passaggio, transeunte, dopodiché figurati come vai a spiegare all'elettorato. Bene, allora, questa formula. Io ti risponderò che in Italia il provvisorio è permanente, allora, visto che la metti così. Mi dici quali sono le novità, oltre a Quagliariello che... Ma c'è il ministro Giovannini che dice un governo sensato non fa provvedimenti se poi non ha un Parlamento che li approva, si parla ovviamente dell'IVA, cioè perché Letta non ha portato più il provvedimento dell'IVA? Perché contemporaneamente i parlamentari del PDL annunciavano le dimissioni di massa. In effetti ha un senso, con quale Parlamento fai votare un provvedimento? Certo, è molto difficile. Se hai l'Aventino virtuale. E questa è la coerenza di Letta, diciamo. Abbiamo in collegamento Anna da Venezia. Anna? Pronto? Salve. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Guardi, una riflessione, semplicemente questo. Ma se noi siamo ricattati tutti, intendo il paese, da una situazione di un singolo che non ha una visione politicamente alta Forse la questione Berlusconi non meriterebbe semplicemente di essere ignorata? Questa è la mia domanda. Ok, grazie. Anna. Credo che ignorare la questione Berlusconi sia un problema molto, molto complicato, perché comunque alle elezioni Berlusconi ha preso tanti voti e in democrazia i voti contano e pesano. E quindi anche al di là della volontà di ignorare o meno la questione Berlusconi è molto complicato. Ecco. Francesco da Palermo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io vorrei un attimo riportare un po' la discussione, non tanto né sulla politica estera o sulle varie discussioni di corrente. Beh, dica quello che vuole aggiungere alla nostra pentola, alla sua opinione. No, io vorrei aggiungere la mia esperienza di persona che lavora con gli enti locali, soprattutto sì, con la regione siciliana, sì. Una burocrazia immensa, sì, lo sappiamo. Un'attività, cioè il farsi pagare dei semplici soldi di progetti fatti o di lavori fatti è una via crucis, diventa uno stillicidio impressionante. Lei che mestiere fa, scusi? Io mi occupo di aiuto ai poveri, aiuto alimentare ai poveri. Ah. E quest'anno, diciamo. Ma con una onlus, con una società? Sì, e quest'anno anzi l'Europa sta decidendo di tagliare questo intervento perché a quanto sembra non serve, perché diciamo stiamo tutti bene, invece c'è... E quindi lei dice come si fa a ottenere i soldi dalla regione, questa è la domanda? Come si fa a combattere con un mostro che per fare un semplice passaggio di un foglio da un piano a un altro fa passare un mese e mezzo? Bene, grazie. Le faccio rispondere da un siciliano doc che è qui con noi, Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno. La risposta non può che essere politica, anche perché non dovrebbe esserci questa telefonata, non ha senso. Dovrebbe essere tutto perfetto e meraviglioso, perché mi risulta che ormai in Sicilia tutto sia stato aggiustato grazie al presidente della regione Crocetta, che viene elogiato, omaggiato perfino dal New York Times, viene considerato come l'attuazione del paradiso in terra. Quindi mi sorprendo che le cose possano andare male, ovviamente. Va bene, vanno malissimo. Questa è l'ironia di Buttafuoco, che naturalmente da siciliano non può che essere così. Ha fatto delle cose che, se solo le avesse fatte Cuffaro, cioè uno che caccia via Franco Battiato per mettere la propria segretaria, l'avesse fatto Cuffaro, sarebbero arrivati gli americani per esportare la democrazia in Sicilia. Cosa tra l'altro impossibile. Possibilissima. Che novità ci sono, Mario? No, io vorrei riportare poi il principio di realtà, il fatto che la borsa di Milano per il momento è la peggiore in Europa, meno 2%. Il titolo Mediaset perde il 5%. Voi capirete bene che tutto questo è ovviamente legato alla crisi di governo, virtuale o reale che sia. E naturalmente bisogna vedere nel corso adesso della seduta che cosa succede. Ecco, ma ti faccio una domanda tecnica, te che sei uno che la sa lunga su questi temi, ma quanto c'è di psicologico Molto. Nelle reazioni dei mercati? Beh, tanto. E quanto di fondo? Tanto, vabbè, c'è una ampia letteratura sul tema. Ovviamente i trader che stanno comprando e vendendo hanno gli occhi puntati sulla situazione politica, sulla stabilità del paese. Vorrei dare solo un dato che secondo me è significativo per capire la portata di una crisi in Italia. Le banche italiane hanno nei loro cavò in pancia, diciamo, circa 400 miliardi di euro di titoli italiani. Ora, voi capite bene che un paese che balla la rumba come l'Italia fa ballare anche le banche e quindi di fatto anche i conti correnti dei risparmiatori, non solo, ma poi diventa quello che si chiama il rischio sistemico, cioè noi diventiamo un rischio per l'Europa e per la ripresa che è in atto. Ed è chiaro che, insomma, bisogna andare molto cauti. Ecco, sentiamo Giampiero da Bari rapidamente, abbiamo ancora 1 minuto e 44 secondi. Buongiorno, volevo semplicemente fare una riflessione sul fatto che l'approccio individualistico alla politica non sia una caratteristica di Berlusconi, ma diciamo dell'intero paese. Lo spazio comune nella Seconda Repubblica pare essere scomparso e sembra che chiunque faccia politico, entri nella pubblica amministrazione, lo faccia al fine di disinteressarsi della cosa pubblica. Per questo Berlusconi vince, perché ecco, in qualche modo ci rappresenta, diciamo così. E una seconda riflessione sul fatto che ci sia una sorta di psicosi collettiva, per cui da 20 anni parliamo di una persona che non fa le cose che dovrebbero intervenire nella nostra vita. Berlusconi e il ponte sullo stretto di Messina dovrebbe essere il titolo di questa crisi politica, o Berlusconi e il milione di posti di lavoro. Certo, naturalmente il fatto che la politica sia polarizzata tra berlusconismo e anti-berlusconismo è qualcosa che alla fine serve a tutti, l'abbiamo visto parlando con Epifani, è stata una strategia anche di unità del partito a sinistra, dove era difficile trovare l'unità sulle cose. Ecco, dopo il giornale radio continua Mix 24, Melo, il programma di Nicoletti che andava in onda in questa ora, più forte e più bello di prima, riprende alle 12.30. Noi riprenderemo dopo il giornale radio con la storia e parliamo del caso Moro, parliamo del Parlamento che ha chiesto di costituire una nuova commissione Moro e abbiamo una esclusiva assoluta. Mix 24, la storia. Sono le 10.09 e 59 minuti, 59 secondi. Qui a Mix 24 abbiamo un documento esclusivo. Parla Steve Picenik, l'americano che ha assistito Francesco Cossiga durante l'allora ministro degli interni durante i 55 giorni del rapimento Moro. O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente. È sabato 13 maggio del 1978. L'orazione funebre di Papa Paolo VI nella Basilica di San Giovanni a Roma è l'ultimo atto della tragedia di Aldo Moro. 4 giorni prima, il 9 maggio, il suo cadavere è stato trovato nella Renault rossa in via Caetani. La famiglia, rispettando la volontà dello stesso Moro, non ha voluto i funerali di Stato. Il caso Moro, lo sappiamo, è una delle pagine più controverse, più ambigue, drammatiche dell'Italia del dopoguerra. Il 5 agosto del 2013, cioè poche settimane fa, i responsabili di tutti i gruppi parlamentari della Camera hanno chiesto l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta, la seconda dopo quella degli anni Ottanta. Commissione richiesta per far luce su quei punti che ancora oggi, dopo 35 anni, rimangono oscuri. E in attesa di questa nuova commissione, noi oggi vi presentiamo un documento davvero eccezionale, l'intervista a Steve Picenik, che è l'uomo ricercato invano dai commissari della prima commissione d'inchiesta Moro, che non ha mai parlato con loro. Era Steve Picenik, che era il consulente inviato a Roma dal segretario di Stato americano e in quei 45 giorni è stato vicino a Cossiga costantemente. Ascoltiamo intanto un breve frammento in cui Steve Picenik racconta appunto il primo colloquio avuto con Francesco Cossiga, all'epoca ministro degli interni. What's going on? Our country is paralyzed. Cossiga mi ha detto: guardi, noi non sappiamo come andranno le cose, il paese è paralizzato, non possiamo contare su un apparato di sicurezza efficiente. Io sapevo che in precedenza i servizi segreti avevano tentato un colpo di Stato, che tuttavia era stato sventato, e Cossiga fu anche molto chiaro nell'affermare: in realtà non posso contare su nessuna risorsa umana, né dispongo di risorse tecnologiche per scoprire dove si trovi Moro, anche se ci proveremo e cercheremo di fare il tutto per tutto. Ma la realtà è che non sappiamo cosa fare. Dottor Picenik, perché si è occupato del sequestro Moro? Il segretario di Stato americano, Cyrus Vance, attraverso il sottosegretario Ben Reed, mi ha chiesto se volevo aiutare il governo italiano e in particolare Francesco Cossiga. Ma quando? Subito dopo il rapimento a Via Fani? Direi che è successo 5-7 giorni dopo. Dottor Picenik, che Washington le aveva dato istruzioni particolari su come agire nel caso Moro?